macchina avanti? Il figlio di Don Marchi. Ma alle mani di Babbo Natale. Vabbè, no, io portiamo sempre Babbo Natale, non già. Anche il figlio di Don Marchi, no? Non sono degno di te. Allora, ti vuoi dire una cosa. Praticamente il PL nel Superstar non ha vita. Tutti gli altri apparati ha vita, nel Superstar sta come... come se fosse sparato, bugia vuota. Ma il PL nuovo che hai preso? Eh? Il PL nuovo che hai montato dal cavo nuovo? Il PL nuovo qua. È strano già. È strano. Hai controllato se l'attacco del Superstar è più corto o più lungo rispetto al PL? Che PL stai usando? Quelli lunghi, non quelli corti, no? Ah, quelli lunghi, ti ho detto che ce l'avevo più a casa anche il cavo. Ho comprato il cavo e il PL. A vita non ha vuoto, non insisto perché sennò poi gli spano la filettatura. Adesso controllo se c'è un PL di quelli vecchi. Sembra strano. Ma stranissimo già, la prima cosa che sento, perché i PL dei baracchini sono standard, sono uguali ai 259 che poi vanno ad avvitare. Mi pare strano. Mi sembra strano. Prova se c'hai già un PL di quelli vecchi, piccoli, avessi avvita bene. No, un PL di quelli vecchi era, ma è blu vecchi. Vabbè, lo mettevo a bagno nel coso, nel disossidante. È strano, caso se insisto poi vado a finire che si spara la filettatura. Gappa. Si spana sì. Chiaro, prendi il PL, riempi un bicchiere di Coca-Cola, di plastica, e te lo cudi dentro. Vedrai domani mattina è lucido. Cappa. Come sta andando, Claudio? Ora. Già, se non ti dico niente, lo sai, no, io sono schietto nel parlare, soprattutto sui segnali. Segnale, chi più ne ha più ne mette, la radio Super 5. Gli ho messo qua, gli ho messo il coso, la static, però si aspettano ancora con le BB più 5, non arriva, mi è arrivata l'aspirapolvere, tutto il resto cose le BB più 5 niente. Ma da fusare, ma ordinategli, sarà come l'antenna di coso, di Bruno. No, non sto sbagliando, non le BB più 5, il tunnel più 3, quello che ho ordinato da internet. Ah, vabbè, ci arriva già. Questo periodo è un casino, io c'ho una radio, devo spedire, infatti una signora mi ha detto non la spedire domani, se no rimane ferma. La spedisco direttamente lunedì, capito? Sempre al centro assistenza, sto mandando sul 430 a farle una bella pulizia, una revisione completa, almeno ce li ho tutti a posto e non si rimane da più. Aspetta che vado a spegnere la radio, perché avevo la radio accesa mentre facevo qualche cosa qua e l'ho lasciata accesa, aspetta che la spengo, me la faccio. Eia, va bene. Claudio. Eia, chi è? Natalino sono qua. Guarda, si è aumentato che ho cambiato la batteria, gli ho messo la batteria nuova. Va bene Natalino, un po' più forte rispetto a ieri, però va bene. Ottimo per la truppa. Cavagava. No, perché gli ho messo una batteria nuova, capito? Non lo sapevo se era carica o scarica quella che c'era. No, va bene Natalino, va benissimo alla grande, non c'è problema. Claudio. Eia. Cazzo, lo siete tutti zitti in un attimo. Prova a vedere che sto guardando il segnale tuo qua. Guarda a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta, qua c'è sicuramente l'RFI che è chiuso. Vediamo un po'. Adesso lo proviamo a aprire. Prova. Guarda a vedere. Come segnale. 10 watt, quasi 15 modulati. È secco questo apparecchio, cazzo. Se ti dà 9,10 come segnale, ma sei di più sicuramente. Perché? Basso segnale. Ah, già. Basso segnale. No, ma non dipende da te, Claudio. Questo apparecchio qua è secco. Ah, mezzo cimbio. Già ci vuole poco. attrarlo, non è un problema quello. Dillo a Bigo Bombo, già te lo fa lui. Lo dice a Capo e Bugnetta, già te lo fa lui. Attali! Uia! Oh, Gianca, ma non intende se è Giannetto. È che sono in ascolto perché sto disinstallando un programma, capito? Ah, ti ho perduto lo smetto. Già va bene. Vabbè, sente male. Ciao Marcoli. Ole, pipistre, Condo. Buonasera a tutti, ogni tanto faccio capolino, ma è per breve, tanto metto mano ai fornelli fra poco. Vabbè, come va? Sempre portantatti, e anche ieri ho sentito, bella roba. E cosa ci vuoi fare? Come ti sembra questo microfono, Marco? Buono. Questo qui me l'ha dato una persona, un amico. Il Turner più 3, quello grigio. Vai tu Luca Cuocuomane, non parli adesso, bello bene, non parli. Cosa Natali? Quel Cuocuomane di Luca mi sta rompendo le scatole, mi. Adesso vado e lo faccio schiattare. Ma chi, Luca Puglioni? Quel Cuocuomane mi. Ehi, Luca Puglioni. E allora? Sempre rompendomi le scatole sta. E lasciagliele rompere. Cosa vuoi che ti dica? Beh già, bugato bene, dai. Cosa qua? Si ne è bugato bene, ma molto più basso perché rispetto al Galaxy segnale. Ha voglia. Se lo metto la Galaxy si rompe 30. No. Io quelle sono fesserie. Magari a forza non usarlo si è installato lo Smith. Ma dillo a Cavo Guglietta. Lui è pratico i baracchini. Vabbè, se l'avrebbe già tarato, se no. Boh, non lo so. Magari non lo sto usando. Cosa vuoi che ti dica? Riprendi Natali. Aspetta che sto facendo il riavvio. Sto facendo cosa al computer, là. Già vi ascolto. Oh, Natali, va, se ti porto la pelletta, non oggi, un giorno che sei meglio, ma la fai. C'è una pelletta da 16 giga, mi fai quella roba là. Ehi, ma se ti serve, ti do la mia, mi. Perché vuole fatta con quel programmino che c'è. Capito? Così parte. Quando tu gli dici parti dalla pennina, parte direttamente il sistema operativo. Allora, sai cosa ho fatto io? Il mio non parte. Cioè, c'è la lineetta, lampeggia, a schermo nero, capito? Però non parte. Allora cosa ho fatto? Sono andato direttamente, l'ho acceso il computer con Windows 7, ho cliccato su... vabbè, per installare comunque, ma l'ha installato. Però c'erano tutti e due, cosa ho fatto? Ho fatto un ripristino da Windows 10, adesso ha solo Windows 10. Incappa. Come ti sembra questo microfono, Luca? Ah, che assomiglia a Santino Pedifella con la voce. Come dice? Ho detto, con la voce, ti assomiglia a Santino Pedifella. Va bene Natalia, ultima. Me l'ha regalato un amico questo qui e lui non lo usava. Gli ha avanzato questo e me l'ha regalato. Manti un saluto, Bordighe. No, Pugioni, Pugioni. Quel Pugioni è quello che rompe le scatole a me. Ah, Pugioni, cosa hai cambiato il cognome? Questo entra un saluto, hai compreso? Vabbè. La vita continua, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pioggia di nuovo. A posto siamo. Gianni! Eia! È 15? Che si dice allora? Fra, tu sì! Cosa? Mi hanno chiamato, chi era Fra? Sai gioco io, carina, che stanno chiamando sopra di me. Ma il tram. Ehi, Fra, cosa passi? Fra, come stava chiamando Genova comunque, c'è proprio la propagazione, è stato un caldo allucinante, un caldo assurdo oggi. Si è fatto una giornata in cantiere, si è fatto un'altra, è caduto molto, crepato, mamma pista qua, ma non qua. Avanti, bruva. No, la schiena apprezzi qua, apprezzi. Poi mi sono fatto una bella doccia calda, calda. Mi sono pure di là, c'è di morti. Perché gli sono fatto al meccanico, per le scarpe nuove. E io sono con quel più, guarda, non commenti. Le scarpe vecchie, a casa, che vecchie, sono nuove. Cazzo, di morti non mi pongo qua, così. Ma ci dicono i miei, quando dico sì, va, non ci sono parole qua. Buongiorno. Via. Ma molta la differenza del segnale. Claudio, non ti preoccupare, è perché lo smitter è un po' avaro. È come il 3009, ma non sono arrivato come te si gas del 3009. Anche il 3009 che ho usato io è avaro. È avaro, i 3009 sono tutti avari. Vabbè, no, toccare, lasciarlo così, già va bene. No, è lo smitter che comanda, no? La radio, stai uscendo benissimo, 5 è perfetta, bello forte, segnale oltre 9,20, va bene, e anche io ho ma non me ne ammetto che è più avaro, non mi ricordo, forse ho il DAC un po' più avaro, o l'Inuit, non mi ricordo, ah no, l'Intec, quello che mi hai dato tu già, quello è un po' avaro. Secco, sì, ma secco, però. Non arrivano più di 9,15, 9,20 tutti quanti. Solo Roberto e Antonello arrivano neanche 9,30. Con Ugarci sono tutti e due a fanno la scala. Marco. Marco sta preparando la cena. Pranzo. Dimmi già. Lo sai che lo sta avvitando col PL lo stesso. Ascolta, ma io sento una bella modulazione e un bel beep. E deve essere un apparecchio bello. Eia. Bene, bene. Lascialo va Gianni, lascialo va, che ha fatto bene. Cava di Rogero. Ogni modulazione che c'ha, ciu. Ah bella, aspetta, la ribaltare più tre lì. Lo tiene spento il Galaxy, come ho fatto io a Kevud. Va bene, vanno bene con la radio. Io dico solo già che quando la giudratta Deo questa radio sono rimasto a bocca aperta, soprattutto in banda, una cosa allucinante, picchi di 170-180 watt modulati. E quello va bene per i DX, infatti, mi. Com'è, quattro poli, il mic, che non mi ricordo. Attacco il gas, c'è quello lì. Ah, quindi ci può mettere di tutto, roba che ha già pronta, MB+5, tutto quello che è lui. Cos'altro ha Gianni? Bravo, come si dice? Il Sadelta ce l'ha. Marco Benizella! Sì, c'è la Sadelta. Al Saletta sicuramente. Ha provato già a metterlo al Saletta con l'ecco chiuso, l'ho chiuso l'ecco. Adesso lo sto provando, guarda come fa. Che sugar. Abbassa appena. Prova, guarda, meglio del Galaxy va. Ehi! Marco! Dovrebbe provare senza eco però, perché confonde. Senza eco, guarda, prova 1, 2, 3. È già spinge la modulazione. Gira di modulazione, c'è più forte di Claudio anche me. Guarda la sopra la radio, è fantastica. A quanto ce l'hai già il microfono? A 4, Cla. No, aumentalo, mettilo a 5. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segna la radio. Ciu. E così al massimo, qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma siamo a Gargamella, qui sa volte già. Cosa? Ma siamo a Gargamella, qui sa volte. Che c'è Gargamella? Ma chi è so Gargamella? Gargamella. A parte il nemico di Puffi, no? Sì, vabbè, comunque a parte Puffi, non Puffi, stia uscendo bene Gianni. Ottimo, alla grande. Io ce l'ho a 2, il 3+3 mio Marco, no? Io posso ottenere la manetta, non so di quanto gioco. Michi che del Galaxy è al massimo, ma il microfono è a 1, a 2. Alla prima attacca dopo la 0. Va bene così, ma non è tu lasciarlo così, sennò i miei vicini poi rompono le scatole. KK, va bene già, va bene. Puoi metterci anche quel microfono, vedi? Attenzione, attenzione, una mia, è qui della Sardegna. Ho già gli attacchi epilettici. Hai sentito chiamare? Ammino mio. Attento Nord Italia, ascolti Pedivella, Pedivella la Sicilia. Sono patati in bocca, vai. Ma questo non è la Sicilia, questo è come stava chiamando poco fa, blu. Chi è che chiama la Sardegna? Kartoffeln, ce ne funca a Volkswagen. No, italiano già, blu, più non lo chiama, forse quello poco fa, non so. Tartari, no. Capito, hai Marco Condo? Io lo tengo così perché se no è troppo alto. Già va bene. Ma sei ancora più alto lui. Riesci a vedere aumentando di una tacchetta. Te. Così a 2,5, neanche a 3. Così diventa già stravagante, diventa. Cioè non c'ho voce, sono uscito oggi con una maglietta e camicia, con la scusa della macchina del sole, cazzo, mi ha fulminato, mi ha beccato la gola, come sempre. È una cosa allucinante, appena di freddo mi becca subito le corde vocali. E tanto sono in cucina adesso, dai, lo sto diraccando. Quindi Corix per me, un saluto a tutti, vai Gianni. Marco, ci vuole neosborocillina per la gola. Neosborocillina? E com'è? Polvere, pomata? Com'è? Non te la vuoi tu? Compresse masticabili, supposte, che ne so io. Ciupa ciupa. Tutto da succhiare, prendi che fa bene. Che perché diventa zona rossa mi di nuovo, da arancione diventa rossa. Dai, buon proseguimento, vai Claudio, Corix per me. Io non esco in moto e prendo freddo, mi scintilla tutta la pedivella e quindi non la sto usando in questo periodo, capito? Perché mi si accartoccia tutta la pedivella, ed è un casino. Avanti, doppio, triplo, lascia che gli sto microfono mi abbiate di più, sei più gigante. Ma questa portante? Ma qual è questa? Ehi, Santiago, chi è? Che cavolo è? Boh, già ne so qui. Ne ha dato una pari una. Ehi, comunque uno schifo, dai. Bisognerebbe dire qualcosa. Ma cosa gli avete fatto a chi subizzino? Cos'è che l'ha cagato? Manco gioco careo, figurati. Cosa ne so io? C'è pizzino, vecchio, anziano, giovane, non so. Sappiamo solo indicativamente la zona dove è proprio la portante, ma non è che si può accusare una persona, cosa ne so. Va bene, dai, Quarix definitivo, ciao, riprendete. Vai, sì, Elia Scantonendi, vai a mangiare, vai, così ti rilasci. Oggi c'ho i cannelloni, ripieni. E anch'io c'ho i cannelloni già ripieno, solo voi. Non da morsicare però, sempre da succhiare, perché se morsichi subito poi non ne avanza. Scusa, mica sto dicendo, tu cannelloni perché come quelli quando li mangi la fai subito a morsi, io tolgo tutto il prodotto, insomma, cerco di farmelo durare, capito? Così vi farei tu, vai mangiare, vai. Gianni. Questa portantina da 2 lire avanti. Claudio. Lui. Ma curato, non comprate PL di quel posto lì. Sono i PL che sono difettosi. E hanno la filettatura diversa. Praticamente mettendo gli altri PL che ho la vita tranquillamente. Te l'ho detto, può essere PL, te l'ho detto controllo, fai il cambio di PL. Ehi, non è la prima volta che arrivi difettosi. Sbagliano la filettatura. E non la vita, no. Capito? Magari chi su che la filettelli lì BL era embriaco e ha sbagliato filiera. No, che lei è la vita, è un casino, cioè però non si adatta a tutti, invece questi qua si adattano sia ad altri apparecchi che a quello. Nel 2009 se non metti questo tipo di PL non ha vita. Bravo Mattia, qua stai usando la saletta adesso. Ehi, la saletta Master Plus, si sente. Una cannonata già, una cannonata, meglio di quello da Palmo, va bene, però lascia l'eco chiuso, che è più bella. L'eco chiuso così, però l'eco gli dà un pochettino di amplificazione, capito, per quello glielo lascio. Ah, ce l'avevi? Sì, allora rimettilo com'era. No, no, pensavo che era chiuso. No, che non faccia, non metterlo al massimo, invece appena appena così aperto va bene. Siamo nati per far casino lui. Beh, flip. Cazzo, ma eravate di flipper, vai, ma vedi se ti date una mate serrati. Ciao Fra, buonasera. Ma se non me lo dici è perché ho visto adesso il segnale, se no te l'ho ripreso per Luca Flipper. Ma vedi, la mate serrati, stessa timbrica, stesso tutto, capito? Funziona bene, Santiago Nova Radio 5, sì, non c'è problema, è che c'ha una timbrica diversa da quella che sono abituato a sentirti io, Fra, capito? Avanti già. Ma di quale Vittorio? Non Vittorio di Sassari, Vittorio Lab, in provincia di Fermo. Io mi c'ho per terra, è già imballato, domani mattina parte alle 4.30, glielo mando a fare una revisione. Non c'ha niente, però è 10 anni che non ho mai revisionata quella radio. Domani parte, capito? Le faccio fare, gli ho detto di fare tutto quello che c'è da fare, tutta una bella centratura, bel allineamento, tutto quello che c'è da fare, se c'è da cambiare sfinottini, se fare tutto. È 10 anni che non la tocco quella radio, anche se funziona bene, però ne approfitto perché è una persona veramente in gamba, seria e soprattutto onesta. Io l'ho ritirato la settimana scorsa, capito? Le ho mandato anch'io il 140, ma tutto revisionato, tutto riallineato, perfetto, proprio alla grande, sono contentissimo, a due lire, proprio è un onestissimo, proprio veramente è una persona onesta. Infatti gli ho detto, guarda, siccome adesso siamo entrati nel rapporto di lavoro, ti mando tutto quello che ho da mandarti, te lo mando. Adesso domani parte il 430, appena arrivo al 430 le mando un altro che ne ho, sempre da allineare, da fare, da controllare, da darle una pulizia interna, capito? Sempre così. E poi devo mandarle un alimentatore grosso da 60 ampere che non accende. È molto bravo e onesto, più che bravo e onesto, perché non posso dire, io non lo conosco, però è molto onesto e la radio mi ha fatta veramente bene. Sempre detto, per usare quelle radio lì è meglio usare un baracchino, capito? Quelle vanno bene in FM, ma da laterale, soprattutto quella marca lì. Se poi parliamo di cable, da allora è diverso, ma quella marca lì assieme alla Yaesu non l'hanno mai curata la M, capito? No, proprio mullata. Funziona perché deve funzionare, perché fa parte del contesto della radio, ma non ha la caratteristica che può avere un K. Mentre la Chemo ha proprio curato nei minimi dettagli tutto il sistema delle radio che ha fatto, capito? Ma radio anche di vecchia data, come 940, 950, 950, il 450, tutte le radio, qualsiasi tipo di radio della Chemo in AM esce benissimo, mentre i come Yaesu sono rimasti molto indietro, ecco perché io non ho mai usato quel tipo di radio in AM, capito, Fra? Vediamo Gianni, doppio. Sicuramente al telefono. Gianni, ma sicuramente al telefono. Natalino inquirisce, poi c'era anche Luca, non so se vuole riprendere a parlare con te. Ciao, già sono qua in radio io, non problema, sono qua e qua. Risolto hai quel problema della presa, ciao qua. Oh, è rimasto giù, sì, mi sto usando, ma non ti dico cosa è successo. Cosa può essere successo? Del quadro che c'ho io sotto, ti ho detto sono quattro, sono quelli rotondi, no, che sono, puoi mettere la spina industriale, quella normale, sono quattro sopra e quattro sotto. Poi c'è il tasto dove accendi e c'è salvavita anche collegato. E andate a dirti una di quelle prese, e andate a dirti il casino ho dovuto fare. Se ti dico che ho dovuto togliere tutte le radio, perché sennò mi ammazza, togliere tutto, ho finito quello faccio, ma io vado a cianzura. Togliere tutte le radio, sai come funziona, no, l'hai fatto tu, piegare i piedi, ammassare per poter arrivare al quadretto, ok, e cambiare, sono andato alla Elcon, perché questo è un quadretto Elcon, sono andato alla Elcon, ho comprato la presa nuova e messa, è andata in tilt, non lo so perché, la massa è attaccata, tutto lì, ha fatto la foto, l'ho mandata all'elettricista, ma poi io non vedo niente di anomalia, evidentemente la spina è andata in tilt e ti crea questo problema di alternata. Ah, ho capito, insomma è fatto un contorsionista, ha dovuto fare sotto il banco. Ma evidentemente ha scaldato, perché magari la spina che hai messo era da 10 ampere, utilizza quella da 15, da 16, da quella larga praticamente, no? La presa sarà bipasso intanto, puoi mettere la spina larga e la spina stretta e usa quella più larga che ha più amperaggio e regge di più e non scalda per niente quello, perché sicuramente non faceva ben contatto tra la spina e la presa e allora ha fatto arco. Cosa significa? Significa che quando il contatto non è proprio perfetto, allora si forma una specie di lucetta tra la spina e la presa e così si brucia, sarà quello, sicuramente così. Lo so, io l'ho aperta però non si vede nulla, è appena appena nera dove entra la spina nella presa, però sono andato, siccome è un quadro della Ticino, sono andato e l'ho presa nuova, ma sono cambiata, ma io l'ho fatta mettere sotto perché c'è il salvavita, quindi sollevo il salvavita e si accende il quadretto, ma non avrei mai immaginato che dovendo cambiare un interruttore in quel quadretto, minchia, perché non si vede niente, tu accendi tutte le radio, diciamo, dove le accendi le radio, mi da qua, guarda, questo è salvavita, sollevo il salvavita che è più in alto e si accende il quadro, ma a lavorare sotto, e come ti vai? E ho dovuto togliere tutti i baracchini e sganciare nuovamente la L, l'altro pezzo, quello che hai agganciato tu, togliere i piedi, piegare i piedi, abbassare per poter lavorarci. Quindi non ti dico io usare, ma dica che è vero, ripiazzare tutto, mi ho finito poco fa. Ho iniziato dopo pranzo, ho mangiato in fretta, l'una e mezza, ho finito poco fa. Sì, ma è così, sicuramente è così come ti ho detto, vuol dire che c'era un contatto non proprio perfetto tra spina e presa, e allora lì si forma un arco, poi mi stai dicendo che è diventato nero e dunque si spiega che è quello il motivo. Però se utilizzi la spina da 16 ampere anziché da 10 va meglio mi fa, perché se tu attacchi ad esempio il legnare che c'è un carico di una certa consistenza, è meglio che ci sia una spina che abbia la portata di più amperaggio, per cui è meglio mettere in quella spina lì, di quell'alimentatore o cosa ci attacchi, di metterci la spina da 16 ampere, e cioè quella larga anziché quella stretta che è da 10, quella da 10 evidentemente che il carico non ce la fa a reggere, perché succede così, eh? Si conferma, Mazzo Giù. Così ho fatto. Ho preso sia la presa nuova da 16, no? Quella che è piccola e grande, e poi ho cambiato la spina al Galaxy e gliel'ho messa di quella larga, capite? In modo che entri nello spazio largo. Mi pare sia l'unica, no, un'altra ne ho anche così, quella del Courier, lo stesso, è larga così, di quelle buone, sempre Ticino, no cinesi. Gliel'ho cambiata qua, sono Renato, mi stavo venendo l'esaurimento, gli ho detto non è possibile, io pensavo fosse il trasformatore, invece ho detto non è possibile, perché il trasformatore non ruota. E quindi ci siamo accorti, hai visto, anche stamattina abbiamo fatto la prova, ed era la presa. Sì, perché succede così, infatti in quel momento stava facendo arco, è una specie di luce, di contatto non contatto, no? Tu presente ce l'hai la saldatrice, ma naturalmente con un amperaggio bassissimo, e dunque si brucia la spina, guarda che così è anche pericoloso, più di una volta gli appartamenti si sono incendiati proprio a causa di queste cose qua, non c'è da fidarsi troppo, perché le spine vogliono sempre da 16 ampere, non mai da 10, perché hanno un carico superiore, cioè reggono di più, sopportano più amperaggio, quelli sopportano 16 ampere, mentre l'altro con la piccola ne sopporta 10. Dunque se tu attacchi una spina, cioè un utilizzatore di qualsiasi tipo, che può essere qualsiasi cosa, anche un asciugacapelli, una stufa, anche un lineare che ha una certa potenza, ecco che la spina allora si può bruciare, brucia la spina, brucia anche la presa, oltretutto, perché non penso che il cavo non si brucia, perché sarà sicuramente di sezione adeguata, perché se no se il cavo è sottile può essere anche quello il problema, il parlo del cavo dell'impianto, allora diventa una resistenza, seguimi bene quello che ti sto dicendo, diventa una resistenza, diventa il cavo, e a quel punto scalda. Tu per quello sai cosa fai? Quando attacchi un certo carico, controlla la spina, la tocchi, senza staccare niente. Quando la stai usando, controlli se scalda. Se scalda vuol dire che c'è il problema. Ok? Sì, ma così ho fatto, mentre poco fa mi sono inchinato a vedere, no, è fredda, era proprio quella spina, quella presa che è andata a farsi fottere, capito? È andata a farsi fottere proprio, comunque, adesso è tutto a posto, no, vabbè, il quadretto l'ha fatto, non so se conosci Arte Male. Caccia, se lo conosco, cioè non credo, tu pensa che io ho imparato dal padre, è vecchio, io sto parlando di tantissimi anni fa, io ho imparato dal padre, e i figli sono bravi veramente, perché anche i figli hanno imparato dal padre, non ci sono dubbi. Ma ancora stanno lavorando, una volta ce l'avevano in via Capodoro, ce l'avevano l'attività, non ci sono più però lì, non lo so. Il figlio, il grande, è responsabile degli elettricisti di Abbanoa, un prezzo 90, cura assieme ad un altro carissimo amico, Antonio Tiloca, che è molto amico di Gianni, doppio room, sono proprio i responsabili di tutto il settore elettrico, cabine, quadri elettrici, gli impianti, tutto il sistema, tutto. Sono loro i responsabili, sia uno che l'altro. È bravissimo, ma bravissimo, è lui che me l'ha fatto il quadretto. Lo so, guarda che lo conosco molto bene, sono bravissimi, sì, già lo credo. Arte Male è uno dei più bravi a Sassari, se non addirittura il più bravo, lo so. Il padre era straordinario, mi ricordo quell'uomo, Mallio si chiamava il padre, Mallio Arte Male, con gli occhi celesti, un uomo che solo a guardarlo ti dava fiducia, ti imponeva fiducia, guarda, veramente, no, era un grande elettricista, veramente. Io andavo con lui, andavo per i cantieri, non è che lavoravo per lui, io lavoravo per la Fiorentina, però questa ditta, la Fiorentina, passava i lavori a lui, passava, e come aiutante andavo io, e dunque ci sono andato per un bel po' di anni e ho imparato a fare l'elettricista proprio da Mario Artemale, ai tempi del tubo Bergman, non, i figli, sì, il figlio grande già l'hanno conosciuto anche loro, i tubi Bergman, sono i tubi particolari di lamierino con un cartone isolante all'interno, che per fare le curve c'era una pinza adatta, eccetera eccetera. Poi è venuto fuori il tubo di plastica, PVC o quella centiera, con le curve a mano, con una caldarella si faceva il fuoco, si scaldavano e si piegava a mano. Non è come oggi c'è tutto, oggi vai a chiedere una curva e ti danno la curva, vai a chiedere il corrugato e c'è il corrugato, dunque è tutto un diverso discorso, è molto ma molto facilitato oggi il lavoro. Ok. Ne si conferma, vediamo un po' se può entrare qualcuno sul canale 10, avanti. Ho sentito un fischio. Sì, ma tu pensa che il figlio arrivano il quadro praticamente vuoto della Siemens, no? E poi mandano tutto l'assemblaggio, tutto il cablaggio, tutto. Se tu lo vedi, vendi che ti guarda e ti muove il capo. Io non ce l'ho visto, ho detto mamma mia, ma ti ricordi tutti dove vanno attaccati? Poi mi con gli occhi mi guarda, e non proprio nulla segnato, nulla, qui ne erano in poco di figli. Ci sono stati qualche centinaia di fili rossi e neri, gialli, grigi, verdi, marroni, di tutti i colori che c'era, che tu guarda, di tu Sant'Antonio mio. Te lo credo, che è bene, tu ci stai, deve fare così, queste cose non è che a uno poi vede, lì sa già, perché intanto perché si usano i fili colorati, ogni tipo di colore ha la sua importanza, perché c'è ad esempio il marrone che è fase, il nero che è neutro, il giallo che è terra, lo sappiamo, no? E dunque non sbaglia, poi il circuito uno ce l'ha in mente, non è che lo deve studiarlo, l'elettricità queste cose le sa a memoria. Guarda che anch'io sono così, non ti crede che sono diverso dagli elettricisti di oggi, perché io oggi come oggi, nonostante gli anni che siano passati, ma mi ricordo tutto per filo e per segno di qualsiasi collegamento, dalla semplice interrotta alla deviata, alla commutata, all'invertita e tutte queste belle cose qua, per cui non è un problema, ci possono essere un milione di fili e uno se la cava benissimo alla grande, a meno che uno non si distrae e può fare uno sbaglio di collegamento, però se uno è attento non sbaglia, stai tranquillo che non sbaglia, perché c'ha il circuito elettrico, la direzione della corrente elettrica ce l'ha nella mente, non c'è problema. No, cosa per me, io l'unica cosa che facevo quando, per dire, si fermava l'impianto, avevamo tutti i responsabili della pinza amperometrica, andavamo, controllavamo. L'impianto di Valedoria scatta il magnetotermico, ma quello no, è il magnetotermico generale, bene a contraddirlo, sicuramente un topo ci ha mangiato qualche filo, quindi interveniva lui, in due minuti l'impianto era in funzione, perché era un problema di topi, capito, se ne vanno nei quadri elettrici e morsicano i cavi, più di uno l'ho trovato disteso tra una fase e l'altra, nella barra del rame, cotto, capito, mandano in corto e stacca. E lui in 5 minuti tagliava, faceva, proprio molto molto bravo. E un giorno gliel'ho chiesto, e ma me l'ha preparato da tanto, io l'ho messo quando è nato il problema del fulmine che mi ha bruciato due radio, mi avevano accusato che le mie antenne avevano attirato il fulmine un po' di anni fa, me l'aveva preparato, che stava facendo dei lavori a Valedoria. Gliel'ho detto, ma è tua, intanto ho dei quadri che piccoli che si possono fare, quante prese vuoi? Ho detto almeno 8, vabbè, ne ho messo 8 prese, salvavita già vuoi esterno, no, ma lasciami il cavo esterno, quello già me lo collego in alto, e così ho fatto, e mi ha fatto un bellissimo lavoro, con tutti i led, praticamente le luci che ti danno l'indicazione che ci sono tutte le tensioni nel quadro, molto bello, e c'è il volumetro e l'amperometro anche, molto bello. Capito? Me l'ha fatto lui, ed è bravissimo, ed è responsabile insieme ad Antonio Tirocca, che ripeto è molto amico di Gianni, della parte elettrica di tutti, sono proprio del distretto, mi pare 6, 7, 8, non solo di Sassari, mi pare che facciano Sassari, Gallura e la zona di Nuoro fanno anche, immagina già di due, quanto sono bravi tutti e due. Sì, beh certo, la società ha scelto bene perché sono bravissimi, già lo so, quella, ho grido. vabbè, dai, comunque è così. Vediamo se entra qualcuno. No, forse non vogliono entrare perché stiamo parlando di cose un po' tecniche, forse non la regala. Possiamo cambiare il discorso comunque. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Oh, ciao. Ciao, che sei Franco? Boh, non ho capito bene, perché hai una modulazione molto strana. Avanti. Sai cos'è Fra? Ci piacerebbe fare certi queste a riguardo, però la gente, ho notato una cosa, che tutte le volte che parliamo di qualcosa tecnica, ma non solamente di elettricità o di radio o transistor eccetera eccetera, oppure, ma anche parlando di antenne, la gente quasi si nasconde, non ha voglia di entrarci, non capisco perché. Vabbè, comunque, avanti Claudio. Ciao Giulio, io sto facendo cosa, mi sto ascoltando, c'è solo solo che sta facendo il cellulare. D'accordo Gianni, d'accordo Gianni, quando ritorni però aggiusta la radio perché si è compresso. Avanti Claudio. Già, cosa ci vendi? Cosa ci vendi? Non ho bisogno di questa radio di nulla. Cosa ci vendi? Sei tutto usato, no? Sì, Fra, scusa se non ti ho rilanciato, ma mi pare che avevi detto rimanevi in ascolto, boh. O qualche d'un altro era. Perdonami, ma mi sto un po' rincoglionendo. Ok Fra, d'accordo, comunque se hai voglia già siamo qua, ci fa piacere, non c'è problema. Sì Gianni, quando ritorni eri molto saturo, per cui metti a posto. Noi vogliamo radio belle, perfette, vero Fra? Non ne vogliamo ascoltare radio complesse o stulpicciate. Adesso come va? Mi sono dimenticato di spegnere Ambarara, dai. Adesso come va? Adesso va bene, adesso ti accettiamo molto volentieri. Oh, ti accettavamo anche prima, però con la radio più bella ci piace di più. Vero Claudio? Gliel'ho letto io Gianni, esce benissimo. Solo ogni tanto ci dimenticai già di togliere il dittino, e allora va bene, no, non c'è bisogno, no? Non ne ha bisogno di grande potenza già, c'è quasi 9,25 qua, alla grande. Radio Super 5, io sto andando 10 volte, figurati, del Galaxy. No, stiamo parlando con Giulia, stamattina mi è venuto un mezzo infarto. Ho acceso il Galaxy ed era tutto pieno di alternata, proprio non si comprendeva nulla. Capito? Pensavo che è andato in tilt il trasformatore, invece la radio non c'è niente. Mi è andata in tilt la presa di comando, la presa che alimentava il Galaxy, tutto qua. Vai Gianni, se vuoi riprendere, se no fai quello che stai facendo, non c'è problema, siamo qua. Vabbè, sono cose che possono succedere, anche a me ne sono successe tante. Comunque devo rinunciare a mettere 3009, perché praticamente questi PL non ha vita, ma rischiano di farmi partire la filettatura. Ma dimmi tu, ma te immagini, ha comprato il PL9 a Fusaro e nel 3009 non ha vita. Ma li può mettere quello che ha vita di uno vecchio? Cazzo molto ci vuole a mettere uno di quelli che ha vita nel PL. Ciao Natalino, cazzo, da me è una vergogna però, è una vergogna qua, ma quando mai, ma cosa stanno facendo questa gente? Vabbè Fusaro non ne ha nemmeno colpa a questo punto, ma la ditta che gli rimanda, evidentemente loro stanno cercando di cambiare, o stanno facendo il PL da pannello, quello che c'è attaccato alla radio, o conforme ai nuovi PL che loro vendono, non lo so, e allora cosa succede? Che c'è differenza in quelli moderni da adesso rispetto al PL da pannello, non è possibile, è una vergogna veramente. Vai qua. Io non li ho preso ancora, dovevo passare a prenderli 5-6 così per tenermi discorto, ma non è biglio. Io poi ho tutte le radio vintage, tutti i baracchini vintage, cosa, ma non ho vita nemmeno il culo a barre, ah, piano ne ho ancora, Mangiamo a me ne serve, perché io non devo staccare niente. Ci sono ispezioni che è già attaccati, che vanno dal commutatore alla radio. Poi oramai sto usando sempre questa, le accendo tutte, ma sto sempre usando questa, capito? Ho capito, Natalini, però se uno spende soldi per avere una cosa nuova, devi bucarnire la cosa nuova per pulire la vecchia, non mi sembra giusto, No, quelli perché erano in corto, già lo sai cosa facevano, qua tu già c'è in frequenza, quindi lo sai. Li ho cambiati per quel motivo lì, perché mi facevano fischiare il Galaxy, eccetera, erano in corto. E quindi cosa faccio? Ho detto quelli di nuovo, sono interrotti, ho provato un cavo di quelli lì, è interrotto. Di quelle spezzoni lì, ma infatti me l'hai detto che ti hai comprato spezzoni nuovi, cavo nuovo, cioè per fare tutto, PL nuovi, e alla voi, cioè vai a mettere un PL nuovo e non a vita, cioè veramente, vabbè, però come dice Giulio, chiaramente loro non è che ne hanno colpa, ne ordinano 50, ne arrivano 50, magari su 50 te ne sono capitati due o tre che sono fasulli, tutto lì, perché sono fatti a macchina, capito già, non è che uno a uno fanno la flettatura, li preparano, sono tutti fatti a macchinari, quindi può capitare, va bene, avanti Giulio. Ecco. No, nitrato e brecco. Sì, beh, certo che può capitare, questo dipende anche dalla fabbrica che li sta costruendo, non riesco a capire. Io la verità ne ho 7 o 8, ne avrò di quelli di una volta, e poi ne ho due moderni, però sono quelli adatti proprio per la Camille, che non li ho mai usati tra l'altro, ma ho visto che vanno benissimo, avvitano benissimo perché li ho provati, eccetera. Ma quelli costavano quasi 5 euro l'uno, 4,90 mi sembra, se ricordo bene. Quelli me l'avevo fatti arrivare tramite Luca, e devo dire che sono degli ottimi PL. Io ne dovrei mettere uno su per l'antenna e uno quando alla radio, e invece non ho fatto mai né uno né l'altro. Perché? Perché quelli che ho fanno sempre bene, dunque non mi sono mai preoccupato più di tanto. Avanti Brecco con la buonasera. Sì, capo, buonasera a tutta la ruota, là. Ciao Giulio e tutta la ruota, là. Massimiliano a questo, ok? Ciao Massimiliano, salutoni, ben ascoltato. Bene, bene, c'è Natalino, c'è con noi, poi c'è Gianni, doppio room, Franco di Sorso in quel ricchis, ma sta lavorando, non può riprendere, e più Claudio, chiaramente. Avanti Claudio. QSL, registrato un altro break. Ciao Massimi, buonasera, ben ascoltato e ben entrato. Faccio entrare l'altro break e poi andiamo a girare la ruota. Avanti break, buonasera. K di Roger, ciao Claudio Ramulos, buonasera, salutoni, cordialità e ben entrato. Il cambio per Massimiliano, che è l'ultimo arrivato, fa girare lui, vai Massimi. Ehi, aspetta che forse c'era qualche un altro. Ciao Claudio, intanto buonasera, vuole entrare. Avanti, chi era sopra di Claudio? Maravigliano, mica. Va bene, ok, quindi saluto Chioro, saluto Giulio, Claudio, Gianni, Franco da Sorso. Ok, va, avanti, già. Ehi, Massimiliano. Oh, ha avuto un problema, ha comprato il PL9, ho fatto gli spezzoni. Cazzo del 3009 non ha vita, te li immagini? Li metto quelli vecchi a vita. E allora ci hanno un passo verso la filettatura. Ma mi stavo un po' mezzo ascoltando nel frattempo che stavo facendo cosa qua, ma se noi mettiamo 10 euro a testa, 5 euro a testa, ci autoquotiamo, ce ne prendiamo una buca e ce ne ridiamo. Buona idea, Massimiliano, sono d'accordissimo, vai Claudio. E non c'è problema, Massimiliano. Basta Farucci, tanto tu ogni volta che vai a comprare qualcosa a Fusaro o non ne ha o sono volentieri invece di non seguire 10 euro a testa, quanti te ne toccano? 3, 4, 5, quello che è 15 euro, non lo so, facciamo un conto magari, anche ne servono 5, che se ne prendo un po' e ce le dividiamo le spese e tutto. Massimiliano, io ho ordinato l'anno scorso una busta dove mi hanno mandato 5 connettori NPL, 5 BNC, ok, BNC sempre uscita PL, 5 PL buoni, baclite gialla, quella gialla buona, non è l'afro ma comunque buoni. Poi cosa mi hanno mandato? 5 barilotti, quindi conta 5 per 4, 20, 20 pezzi. Ho speso, compreso il trasporto, 15 euro. Se ti vedo con il Zene, per quello che te l'ho detto. Tanto tu vai da Fusaro, compri un PL di plastica, il Teflon, e te lo fa pagare 2,50 euro. Alla fine conviene che ci autocortiamo e ce li dividiamo, tanto bene o male, uno, un PL, una cosa, qualcuno le serve sempre, capito? Io ne ho tre o quattro, con in bacchilite, e qualche di un tempo ce l'ho, però sempre qualcuno in più serve. Passa avanti, chiodo. Sì, QSL, molto bene. Ma va bene così, basta quattarci, io ve ripeto, so anche dove ordinarli, roba buona, prezzi buoni, quindi basta ci quattiamo, problemi non ce ne sono, si fa una cosa fatta bene perché è inutile stare così, capito? Avanti Giulio, fai girare. Ok, sì, sono d'accordissimo, guarda, sono d'accordissimo, è un'idea più brillante quella che ha lanciato Massimiliano, per cui io sono prontissimo, non c'è problema, perché sarebbe un buon modo di collaborare fra tutti noi, così almeno questa gente qua le mandiamo al diavolo, le mandiamo, perché intanto hai visto, vai lì, intanto te la fanno pagare col sale, con la pepe il materiale, poi ti danno mondezza, ripeto, anche se ad avvolto loro non hanno colpe, però tutto sommato per quale motivo ci dobbiamo perdere noi, non lo so. Avanti Gianni. Gianni è caduto dalla sedia, avanti Massimiliano. Sì, e comunque oltretutto essendo stato al posto di Gianni mi avrei portato la radio appresso, il PL che mi ha venduto lui, e io l'avrei fatto vedere. Cioè già che, perché sembra così, no? Non siamo, cioè siamo pochi ma siamo tanti, capito? Io parlo Sassari e provincia, ci sono due negozietti non sono neanche forniti come se devono essere forniti. Guarda, se c'è una cosa non accappa mai nulla il tuo cuore, boh. Sì, ma in effetti è così, guarda che mi hai tolto a me l'idea dalla mente, perché ci sei arrivato tu un momento prima di me. Anch'io avevo quell'intenzione di dire a Gianni la stessa cosa, solo che tu immaginati che uno deve andare con la radio per comprarsi un PL, cosa è l'altro mondo però, è cosa dell'altro mondo, anche se devo essere sincero, siamo costretti a fare così se vogliamo comprare qua, perché non è possibile che si possa continuare con questo sistema, è assurdo. Io già ho sentito tante persone lamentandosi dei PL o che sono in corso o che non avvitano, è una vergogna, guarda, è veramente una vergogna. Avanti Claudio. Claudio, io? Sì, perché l'altro si è assentato, ha detto che si assentava, vai. QSL, sì, ma credetemi che così, non è che ci siano molti discorsi da fare, basta quotarsi, mettere 5 alla testa, veramente, poi ce li dividiamo, no? E chi ne vuole di più, chi ne vuole 5 alla testa, si fa quanti PL dobbiamo prenderne, 30? Ok, quanti siamo? Ce li dividiamo, cosa c'è in Kiwi, 2 a te, 3 a quello, 3 a quella, capito? Tutto qua. Gappa, avanti già. Guarda, guardate voi che sto facendo roba. Come a radio. Sì, ha messo il Salenta. Gli ho detto, volevo farli, farmelo sentire, va molto bene, sì. Ottima radio. Vai Massimi, riprendi tu, dai. Via, è fatto solo ascoltare lì. Va bene, va bene. Ho visto. Le cose fatte così alla garlona. E poi ci fa anche una brutta piazza, non solo lì. Perché poi siamo in pochi e la voce gira subito, ma comunque, anzi io come negozietto sul fatto CB l'avrei più, diciamo, l'avrei più assortito, ecco. In effetti qua anche quello c'è da dire, ma comunque le cose loro, la gestione loro lo sanno come devono fare, evidentemente non se la sentono. Sì, ma io vorrei adesso intanto chiedere scusa a Natalino, perché probabilmente non so se lui voleva riprendere, perché sappiamo qual è la sua situazione, però lo voglio rilanciare. Avanti Natalino, non riprende, dai. Natalino non riprende, è così Massimiliano. Sì, diciamo che in parte le posso anche capire questi negozietti, questi due negozietti che ci sono qua, perché non credo che almeno per quanto riguarda quello che usiamo noi abbiano una grande vendita, però almeno se non altro tienene un po', però che devono essere buoni, perché se vengo una volta e mi freghi la seconda volta non ci vengo più, allora cosa faccio? C'è Amazon oggi, tu qualsiasi cosa che se chiedi nel giro di 24 ore arriva il materiale, per cui non c'è problema. Con tutto il rispetto che ho magari anche per gli altri negozianti, perché devo dire che Amazon so che paga pochissime tasse, ma questo è un altro problema, non è un problema nostro, è un problema di Stato. Per cui, però quello che so io è che Amazon fornisce del materiale, no? Io ad esempio avevo preso un po' di tempo prima di Natale un PMR. Dopo che l'ho usato 3 o 4 volte questo PMR, ho messo la chiavetta di blocco e non si è più sbloccata, è rimasta così. L'ho spedito indietro, sono venuti loro, sono primo telefonato, sono venuti loro, se l'hanno ripreso, io non ho fatto altro che impacchettarlo dentro la scatola, sono venuti, se l'hanno preso, mi hanno rilasciato una ricevuta, dopo 2 giorni mi hanno restituito i soldi. Per cui vedi bene, è anche un trattamento molto ma molto serio e particolare. A parte il discorso che poi dicono, perlomeno così dicono, che pagano poche ma pochissime tasse, questo è solo affari di governo, non nostro, non sono affari nostri. Claudio, sei rientrato? A me il pesce. A te il pesce, vai. Ehi, stavo sistemando la roba perché c'era un po' di roba in giro, me la sono sistemata. Sì, va bene, già, d'accordo. Allora, mette da parte tutto e entra a parlare con noi, dai. Capito, no, Massimiliano? Mi hanno dimostrato che sono una grande azienda, oltre al fatto che sono di una celerità estrema, perché in un paio di giorni, massimo 48 ore, tu hai quello che chiedi. E poi, allo stesso tempo, hai tutte le ragioni per poterlo rispedire indietro senza pagare un centesimo, perché vengono direttamente loro a prendere il materiale che ti hanno spedito. Se tu non sei d'accordo, vengono loro, se lo portano via, ti rilasciano la ricevuta e ti restituiscono i soldi. Ma se vediamo, meglio di così, dai. Sì, io sono d'accordissimo. Tanto, vabbè, non è che un PL lo sto usando domani, quindi anche se ci mettiamo d'accordo per la prossima settimana, 10 giorni, quello che è. Uno fa la spesa, da cibo, da tolo, uno poi va, poi quanto è il totale? 30 euro, si divide per 4, per 3, per chi gli serve, non è risolto il problema. È un sismo, ma pure. Stavo dicendo già, ottima radio, come stai usando? Consoletta Master Plus. Ci vuole una radio allucinante. Ma manetta ce l'hai? No. E alzalo un altro pedino. Guarda, così a manetta. No, è così, è troppo, abbassa la pena. Guarda, 1, 2, 3. Così è bella, Giulio, confermi. Ma io l'ho sempre detto, Iaco. Non ricordo male, adesso non vorrei essere presunto, ma se non ricordo male, tempo addietro, te l'avevo detto io a Gianni di comprarsi un Sadenza, perché io ce l'avevo da tanto tempo, da anni ce l'ho, e ce l'ho sempre, solo che mi ha abbandonato e non so per quale motivo, l'avevo messo da parte che stava funzionando, l'ho ripreso, ho messo la batteria e non accendeva più lo spioncino. Se non accende più lo spioncino vuol dire che non funziona, e allora l'ho rimesso nel cassetto. Però so che, ricordi Gianni, mi sembra che te l'avevo detto io di prendere il Sadenza, confermi? No, io praticamente avevo le MV5, poi una persona mi ha detto, guarda, c'è un Sadenza, se ti interessa facciamo scambio, e l'ho scambiato, e mi hanno dato il Sadenza e gli ho dato le MV5, capito? Ma non era già il programma, se la trovavo vi piaceva come microfono, perché io veramente da rischio l'ho sentito il Sadenza, che ci va bene. Poi non lo so che fine ha fatto con di Alessio. Beh, prima di Antonello, Sadenza ce l'avevo io, che l'ho dato a Giulio, che si è rotto, io lo usavo con tutti i baracchini, capito? Riusciva molto bene, molto molto bene. Certo, e successivamente poi io ne avevo, ce l'ho sempre, ne ho un altro, quello con la Sadenza Master Plus, aspetta, com'è? Non mi ricordo bene come si chiama, Sadenza Master Echo Plus, ecco così, quella è la sigla giusta, che è il gambo che si piega, ed è il gambo è praticamente un coso, come si chiama, un'asta piatta.